¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Seimaggio 1992, caro babbo, Pirlo. È inutile discutere,

già son colui che senza star non può. Di dimandare amor seppur d'amor deriso, se voleste io sarò. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cielo en la ventana, este mundo que despierta y la noche va yéndose lejana, tan lejana. Hasta estando oscuro, mira nuestra tierra que nos ofrece el sol y no nos deja solos. Esas olas como una barca que mira nuestra tierra que gira con los dos hasta estando oscuro. Yeah. strada sei che scende dentro me, che come un fiume va e come un fiume tu mi prendi là. Accenderai i colori dentro ai tuoi occhi, non sarà mai più neve, salirà, salirà, s'aprirà Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Mágoa sem um adeus sequer e uma

penso all'amore di chi ti ha aspettato e mille giorni e mille notti senza capire, senza sentire, senza saper che non c'è niente al mondo, né bene più profondo, sei solo tu, soltanto tu. Alley. sperare. La flore nel giardino disegna il tempo. Estarás segura de mi amor que te lo llevas para ti. Preso entre tus manos llega hasta tu cara, vuelves a pensar en mí. ¿De qué te servirá mostrarle al mundo que Radio Acupé, la mejor música para usted. Where will we stand?

alle spalle, dal suo nemico, che strano parlava delle rose, del vino e di cor.